Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Da una decina d'anni la ricerca in campo farmacologico è fortemente impegnata nello sviluppo, oltre che di nuovi farmaci, anche di nuovi metodi per trasportare in modo mirato degli agenti curativi a specifici organi, a specifici tessuti o addirittura a specifiche tipologie di cellule. Non sfugge a nessuno che se io, per esempio, fossi capace di colpire selettivamente con un farmaco solo delle cellule tumorali, anche un veleno potrebbe essere utile. Ecco, tra i principali candidati a svolgere questo tipo di lavoro ci sono delle piccolissime strutture, delle nanoparticelle. Questo approccio, che appunto è stato molto studiato negli ultimi anni, si è però scontrato con le difese immunitarie dell'organismo umano, che tendono a riconoscere come nemici queste particelle e a distruggerle. Per cercare di superare questa situazione, di Unpass è nato il progetto DIRNANO, che coinvolge ben 12 istituzioni scientifiche. Sarà coordinato dal professor Emanuele Papini del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova. Professor Papini, che è naturalmente in linea con noi. Buonasera, buonasera, benvenuto a Smart City. Buonasera, grazie dell'opportunità. Senta, ci può fare per cominciare qualche esempio di queste nanoparticelle e di come funzionano? Certo, allora diciamo che le nanoparticelle sono oggetti molto piccoli, come lei ha detto, addirittura molto più piccoli del micron, che è un millesimo di certo, se no non sarebbero nano, sì, 100 nanometri o meno. Quindi dell'ordine, diciamo, possiamo dire del virus, ecco, di virus, visto che per riallacciarsi alla quotidianità. E ci sono di diversa natura. Io posso fare l'esempio di un sistema che è arrivato all'uso in clinica e che si basa sull'uso di liposomi. Cioè, in questo caso l'oggetto piccolo è una specie di sacchettino di formato, diciamo, da dei lipidi che contengono al loro interno un farmaco antitumorale, la doxorubicina, che appunto normalmente può essere utilizzato come tale ed essere iniettato, diciamo, come molecola libera. Quando viene, diciamo, intrappolato dentro la nanoparticella, che in questo caso è un sacchettino lipidico, ha delle proprietà più efficienti perché produce meno effetti collaterali. Quindi certo, questo è un esempio di nanosistema che è utilizzato. È importante notare che già in questo caso la gocciolina, diciamo, di membrana lipidica viene rivestita da una sorta di, diciamo, di capigliatura di polimerica che serve proprio a renderla biocompatibile e a sfuggire in qualche maniera a quello a cui lei ha anticipato, cioè all'intercettazione da parte del sistema immunitario. Quindi questo è un nanosistema che viene utilizzato attualmente in clinica nel caso chiaro di certe tipologie di tumori. Ecco, ci sono poi però ci sono anche tanti altri materiali, per esempio l'oro. L'oro certo è un materiale abbastanza biocompatibile, può essere prodotto in questo caso si tratta di una masserella, diciamo, metallica, molto piccola, può essere prodotta da 5-10 nanometri, si può modulare le dimensioni e anche questa masserella d'oro può essere ricoperta, derivatizzata, diciamo, con molecole di diversa natura in modo da poter trasportare farmaci, ma anche da poter essere targettata. Abbiamo anche, per esempio, particelle fatte di silice, cioè il materiale che forma le rocce o il vetro, opportunamente modificate per renderle più biocompatibili. Quindi, diciamo, se si può sbizzarrire, in effetti negli ultimi decenni gli scienziati dei materiali, i chimici, hanno sviluppato la capacità di produrre una quantità di possibili, diciamo, nanoparticelle per l'uso anche medico, che è veramente straordinaria. Però c'è questo problema che appunto vengono acchiappate, diciamo, dai globuli bianchi dal nostro esatto sistema immunitario. Ecco, quindi come si svolgerà il progetto? Voi che obiettivi avete? Allora, l'obiettivo, diciamo, è proprio questo di affrontare I problemi che insorgono nell'applicazione di questi nanosistemi in ambito medico da questo particolare punto di vista. In effetti il successo dello sviluppo di nanofarmaci non è veramente straordinario, cioè molte sono le idee, come ho appena detto, perché molti sono i materiali, molti sono i design che si possono fare, ma difficilmente si arriva proprio al prodotto finale. Sì. Che deve essere utilizzato per una serie di motivi. Il nostro punto di vista è questo, che appunto un fattore principale che può ostacolare lo sviluppo del farmaco è proprio l'interferenza da parte del nostro sistema immunitario. Per sistema immunitario intendiamo naturalmente anticorpi, globuli bianchi, ma anche le molecole, diciamo, che sono meno note, che sono evolutivamente più antiche, che sono già presenti e che hanno una capacità di riconoscimento, possiamo dire, più grossolana di tutto ciò che entra nell'organismo. È un corpo estraneo, diciamo, di tutto ciò che rappresenta una stranezza. Esatto, possiamo immaginare un toro in un'arena, no? Che si guarda intorno. Se questo toro vede un drappo rosso che si muove, parte. Quindi quando noi produciamo le nanoparticelle dobbiamo stare attenti a non introdurre questi elementi, questi drappi rossi, insomma. Ecco, ma dobbiamo conoscere quindi come questo sistema immunitario già presente, che agisce subito e che va a intercettare la particella, la neutralizza, la elimina, vede la particella, no? In molti casi lo vede come qualcosa di estraneo. Quindi quello che noi cercheremo di fare è di agire in maniera sistematica, cioè i nostri partner europei e anche altri italiani potranno realizzeranno delle nanoparticelle con materiali diversi che saranno rivestite con agenti polimerici o di altra natura differenti. Per esempio abbiamo delle company che sono normalmente dedicate al rivestimento anche di materiali macroscopici, che si dedicheranno a produrre polimeri particolari, e andremo a valutare in vitro e in vivo quali appunto sono le quali funzionano, qual è il punto di vista del sistema immunitario. In questo modo noi potremo modulare l'azione, potremo produrre nanoparticelle, diciamo, invisibili, cosiddette stealth, perché abbiamo capito cosa non va messo, oppure al contrario possiamo anche decidere che vogliamo che la nanoparticella vada in braccio al sistema immunitario, in questo modo inducendo per esempio risposte immunitarie e antitumorali. Grazie professor Papini, e fateci sapere come grazie va a finire. A bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.